stai dove sei, solo dentro me. Cosa fai, come sei, solo come me. Inventarti qua e là, gioco vecchio oramai, bussa già. Che farai, amore mio, che sorriso avrai? Dai tuoi sì, dai tuoi no, cosa imparerò? Principessa serena del cielo che avrò, bussa già. Bussa già.